se la sua offerta è un sacrificio di comunione. Se offre bovini maschio o femmina, li offre il Signore. Imponga la mano sulla testa della sua offerta e la immoli all'ingresso della tenda del convegno. I sacerdoti, figli di Aronne, spargano il sangue intorno all'altare. Del sacrificio di comunione offra come dono al Signore il grasso che copre gli intestini e ogni grasso che sta intorno agli intestini, i due reni e il grasso che sta sopra ad essi intorno ai lombi, ma toglierà la massa grassa del fegato sopra i reni. I figli di Aronne faranno fumare tutto questo sull'altare, sopra l'olocausto, sulle legna che stanno sul fuoco. Dono offerto come odore gradito al Signore. Se la sua offerta per il sacrificio di comunione al Signore è di ovini, li offra maschio o femmina senza difetti. Se l'offerta che egli fa è di un agnello, l'offra alla presenza del Signore. Imponga la mano sulla testa della sua offerta e la immoli davanti alla tenda del convegno. E i figli d'Aronne ne spargano il sangue intorno all'altare. Del sacrificio di comunione offra come dono al Signore il grasso, la coda intera, staccandola vicino all'osso sacro, e il grasso che ricopre gli intestini, e tutto il grasso che sta intorno agli intestini, i due reni con il loro grasso, e il grasso intorno ai lombi e al lobo del fegato, che staccherà al di sopra dei reni. Il sacerdote farà fumare tutto questo sull'altare, come cibo, dono offerto al Signore. Se la sua offerta è una capra, la offra alla presenza del Signore. Imponga la mano sulla sua testa e la immoli davanti alla tenda del convegno. E i figli d'Aronne ne spargano il sangue intorno all'altare. Di essa offrirà come dono al Signore il grasso che avvolge gli intestini e tutto il grasso che sta intorno ad essi, i due reni con il loro grasso e il grasso intorno ai lombi, ma taglierà al di sopra dei reni la massa grassa che sta intorno al fegato. Il sacerdote farà fumare tutto questo all'altare come cibo, dono offerto come odore gradito. Ogni parte grassa appartiene al Signore. Legge eterna per tutte le vostre generazioni, ovunque voi abitiate. Non mangerete né grasso né sangue.